intermarata. Sanctus, sanctus dominus. Benvenuti. Bentornati, anzi. A Testa o Croce Show. Cari amici, come avete passato le vacanze? Ecco, fatecelo sapere ai nostri contatti. Solo se è pertinente. Se avete fatto vacanze di culto e cose del genere. Ritiri spirituali, meditazioni. Sì, queste cose qua un po' new age. Celebrazioni. Sì, o sì. Tradizionali della vostra religione, ad esempio. Il cenone, per esempio, di Natale o di Capodanno. Sì, ma non diteci cosa avete mangiato. Che, insomma, no, a me interessa. No, a me interessa. Scriveteci. Scrivetemi. Firmate per vincere. Esatto. Ecco, e vogliamo dare contatti. Allora, l'email è testacroceshow@gmail.com. Poi abbiamo il contatto Skype che è Testa Croce Show. E abbiamo anche un blog che è testacroceshow.blogspot.com. C'è un aggiornamento giusto dell'ultima ora e se volete darci un'occhiata, ecco. E rispondere, sarebbe molto gradito. Benissimo, ma diciamo a chi ha conosciuto per la prima volta la nostra trasmissione oggi, migliaia di nuovi ascoltatori. Assolutamente sì. Dunque, noi parliamo di religione. Esatto. E trattiamo notizie, curiosità, tutto quello che orbita intorno al campo della religione. Sì, e io sono Vince. E io sono Gab. E con noi c'è Fede, il nostro tuttofare, sì. Tecnico audio. Tutto quello che non c'entra con il microfono lo fa lui. Questo ha un suono strano. No, vabbè. Cosa... Vabbè. Sì, è una cosa importante da ricordare. Senza di lui non potremmo fare niente, perché siamo degli inetti fondamentalmente. Sì. Questa è la nonna puntata, quindi vi siete persi 8 puntate che però presto saranno online, no? Sì. Non appena ci sarà lo spazio sul sito di Radio Cage troverete tutti i podcast e le vecchie puntate. Dunque, direi che oggi è il 12 gennaio. È il 12 gennaio, sì. Dunque, allora, ci sono alcune ricorrenze, come ormai è duopo. Sì. Parte l'almanacco di Testa Croce Show. Esatto. Vabbè, però non ridiamo perché partiamo dalle morti. No, partiamo dai santi. Partiamo dai auguri. Santi, sì, giù, sei più allegro, sì. E poi sono dei bei nomi. E poi sono sempre bei nomi. Allora, oggi festeggiamo San Modesto, San Ferreolo, Sant'Aelredo o Etelredo, Sant'Arcadio di Cesarea di Mauritania, Santa Cesira, che è la sorella di Santo Cesario, che lava e stira, esatto, Santa Taziana e Santi Tigrio ed Eutropio. Ah, auguri Eufrate. Sembrava, ma invece auguri. Fantastico. A tutti voi, non sto a ripetere i nomi, ma auguri. Non è il caso, non è il caso. Allora, bene, passiamo alle celebrazioni, sì, delle scomparse. Sì. Dunque, intanto nel 1665 se ne andava Pierre de Fermat, il famoso matematico autore del teorema omonimo. Certo. E nel 65 moriva invece nello zoo di... nel 1965, però. Moriva nello zoo di Washington D.C. il porcospino più vecchio del mondo, a 27 anni. Oi boh! Tuttora è il porcospino più vecchio, mai più longevo, ma senti. E poi una cosa un po' più invece di alto livello e più recente, Agatha Christie nel 76, insomma la grandissima, se ne andava agli 85 anni. Sì. E i nati. Sì, nati, sì. Il 12 gennaio, dunque nacquero il 12 gennaio Jack London, Camillo Sbarbaro, Maharishi Mahesh Yogi, famoso fondatore della MT, no? Della meditazione trascendentale. Fantastico. Sì, e poi il mistico Vivekananda. Bravo, sì, sì. Ce l'hai anche tu, ecco, sì, appunto. Sì, di cui discepolo di un altro grande maestro, ma ricordiamo comunque una frase che mi piace molto di Vivekananda. Sì. Finché anche un solo cane nella mia terra sarà senza cibo, la mia religione sarà quella di dargli da mangiare e servirlo. Tutto ciò che esclude questo è non religione. Condivido, e casualmente ho qui anch'io una frase di Vivekananda con cui voglio ricordarlo, ed è: prendete tutta la responsabilità sulle vostre spalle e sappiate che voi soli siete i creatori del vostro destino. Tutta la forza e tutto l'aiuto di cui abbisognate sono dentro di voi, perciò createvi voi stessi il vostro avvenire. Bello, bello. E poi, vabbè, appunto, anche un musicista molto famoso, Rob Zombie. Rob Zombie, sì, infatti. E vabbè. Quindi insomma, è il compleanno di Rob Zombie. Zombie. Sì, sì, lui è ancora vivente, nonostante il nome, è ancora vivente. Benissimo, vogliamo sentirci un suo pezzo allora? Ma mi sa proprio di sì. Come facevi a saperlo? Sei veramente un veggente. Sì. Sì, ci ascoltiamo degli White Zombie, la sua band, ecco, sì, sì. Thunder Kiss 65. Ecco che parte. Well, we a little sister's hot hell, cheating on a halo, rising in an atmosphere, a holocaust, a house. Eccoci cari amici di Testa Croce Show. E soprattutto cari amiche. Bravo, bravo, sempre importante. Bene, diamo una notiziola veloce, anzi un paio velocissime. Ora, vai, prima sparale. Che Mitt Romney ha vinto le primarie repubblicane in New Hampshire dopo anche la vittoria in Iowa e si è confermato il candidato numero uno alle presidenziali per i repubblicani. La cosa interessante è che sarebbe il primo mormone ad ambire alla Casa Bianca. Ah, però! E nonostante appunto le grosse reticenze che ci sono nei confronti dei mormoni negli Stati Uniti, è riuscito, è il candidato veramente favorito a rappresentare la sua parte politica. Ed è una buona notizia. Sarà contro Obama, probabilmente. Sì. Non lo so, onestamente. Però diciamo che gli altri erano non sono il massimo. C'è Santorum, che è un integralista cattolico, altra. Beh, ma i mormoni comunque abbiamo parlato spesso in trasmissione. I mormoni ne parleremo comunque. Credono in un Dio antropomorfo, sì. E varie altre cose succose. Comunque, sì, penso che non mancherà una puntata su di loro. Un'altra velocissima, quasi di gossip, però molto interessante. Gossip religioso. Sì, però coinvolgerà tante persone, secondo me, perché la popstar 17enne Justin Bieber, idolo dei teenager, religione ha recentemente sfoggiato il nuovo tatuaggio che ha sul polpaccio, un'immagine del volto di Gesù Cristo. E questo è il terzo tatuaggio dopo la scritta Jesus sul torace e un piccolo uccello sul fianco. Vabbè, no, molto devoto. Io non sento, userei il potere di trascinamento sui giovani, ecco, Justin ecco, Bieber, infatti. Che comunque è un giovane cristiano e fa del cristianesimo uno dei suoi capisaldi, insomma. Sì, a parole, a livello pubblicitario quantomeno. Esatto, esattamente, quindi potrebbe tirare tante giovincelle. Sicuramente. Comunque voglio dire che nell'intervallo Francesco ci ha ricordato, il nostro ascoltatore, che Rob Zombie è anche un regista. No, sì, il suo regista film, horror sì, tra cui La casa dei mille corpi, no? Il suo film. Sì, sì, sì. Bene, vogliamo passare alla prima domandona del 2012. Giusto, perché facciamo queste domandone? Ecco, perché noi teniamo un concorso a premi, e lo scorso è stato vinto da Federica, era un palio, due biglietti per il Valhalla. E come decidiamo il vincitore? Facciamo delle domande e tra le migliori interventi ne selezioniamo alcuni e poi tramite il lancio della monetina stabiliamo il vincitore. E quindi ogni puntata avrete una domanda o un paio, insomma, e potrete rispondere ai nostri contatti, sì, che poi ricorderemo. In generale, comunque, tutte le vostre interazioni, no? Le domande che facciamo in diretta, a noi fanno molto piacere, sì, no? Innanzitutto sì, perché sì, noi sì. Siamo qui soprattutto per sentire le vostre diverse opinioni sugli argomenti che tocchiamo. E non quindi solo, ma ascoltiamo le vostre richieste e si vedrà anche fra poco che vi stiamo ascoltare e vi diamo retta. Ecco, bene. Cosa non scontata, benissimo. Quindi passo a fare quindi la prima domandona. Sentiamo. Che voglio introdurre con un passo del Corano. Precisamente dalla 38esima sura. Allora, quando il tuo Signore disse agli angeli: ecco, dal fango ora io farò uscire un essere umano. Quando l'opera mia sarà compiuta e bene assai, e gli avrò insufflato parte del mio spirito, cadrete prosternati avanti a lui. Gli angeli tutti si prostrarono, meno Iblis, che si gonfiò d'orgoglio e subito fu messo nella lista degli infedeli. Dio allora disse: o Iblis, cosa ti impedisce di prostrarti davanti a ciò che io stesso con le mie mani ho creato? Credi di essere più grande o di un rango superiore? Io sono migliore di lui, rispose Iblis. Tu mi hai creato dal fuoco, mentre lui l'ha creato dall'argilla. Fuori di qui, ordinò Dio, tu sei maledetto. la mia maledizione ti perseguiterà fino al giorno della retribuzione. Signore, disse Satana, lasciami in vita fino al giorno in cui loro resusciteranno. Tu sarai, disse Dio, tra quelli ai quali sarà permesso di attendere fino all'istante a noi noto. Giuro per la tua potenza, disse Satana, di sedurli tutti, ad eccezione dei tuoi servi sinceri. Ecco, quindi è potente. È praticamente una rielaborazione islamica del mito dell'angelo la ribelle. Esatto, dell'angelo ribelle. Quindi la domanda che voglio farvi è: chi è il diavolo per voi? Quindi aperto alle vostre interpretazioni, insomma, se credete nel diavolo, che quindi secondo voi è un'entità realmente esistente, sì. Oppure se secondo voi è un simbolo, e se è un simbolo di che cosa? Sì, fateci esatto, sapere. Esatto. Non vi fate spaventare se non credete nel diavolo cristiano o comunque della vostra infanzia, Date libero spazio all'interpretazione. Esatto, una vostra libera. Ovviamente non abbiamo detto ancora cosa c'è in palio, lo diremo nella prossima puntata. Esatto, un po' di suspense. Sì, esattamente. Sì. Passiamo a un'altra notizia, ce la facciamo prima del prossimo brano musicale? Sì, almeno un paio di notizie Diamole. Brevi o una succosa, vediamo. Diamole. Bene, allora, abbiamo parlato qualche puntata fa di Salman Rushdie, sì. Un grande scrittore, vincitore del Booker Prize, e recentemente doveva partecipare a una presentazione in India, di un festival letterario, e i leader spirituali musulmani si sono opposti, hanno chiesto che gli fosse impedito di entrare in India, cosa che comunque era già successa in passato, ricordiamo, lui è stato perseguitato dal 1988, sì. Da quando scrisse The Satanic Verses, sì. I versetti satanici, che fu considerato blasfemo dalla comunità islamica e fu bandito e tuttora è bandito in tutto lo stato. Ha ricevuto minacce di morte, insomma, sì, una cosa abbastanza pesante. Certamente. No, anzi, è proprio vittima, cioè bersaglio di una fatwa ufficiale. Sì. E insomma, e quindi la cosa continua, non si vede una soluzione. Ci auguriamo che non gli succeda nulla. Certo. Restiamo sull'oscurantismo in qualche modo islamico. Credo si pronuncia così, non ne ho idea, Najib Sawiris, magnate egiziano, dovrà affrontare un processo per aver postato su Twitter il giugno scorso un'immagine ritenuta offensiva nei confronti della religione islamica. Nell'ironica foto Mickey Mouse compariva con barba e tunica, mentre Minnie col niqab. Lui si era anche scusato, ma non è servito. È stata infatti avviata una vera e propria mobilitazione per boicottarlo da ambienti integralisti anche su internet. A seguito di una denuncia è stato rinviato a giudizio da parte del procuratore del Cairo. Quindi sarei curioso di vedere questa immagine, sinceramente. Però. Sì, in effetti deve essere molto divertente. Magari la postiamo sul blog. Sì, potrebbe essere una bella idea, se la troviamo. Sì, magari se Najib o Najib Sawiris ci sta ascoltando, potrebbe spedircela in email. Sì, così facciamo prima, in esatto. Alta qualità. A testa croce show @gmail.com. Sì, a questo punto ricordiamo anche il blog, così testacroceshow.blogspot.com. E anche lo Skype, aggiungete testa croce show. Anche per rispondere alle domande, eventualmente in diretta, non ci dispiace. Assolutamente affatto. No, anzi. Bene, passiamo a un po' di musica. Sì, un po' di musica. Visto che siamo di buon umore, mandiamo un pezzo molto allegro. No, deprimiamoci invece. No, io invece sono allegro e voglio mandare questo pezzo molto allegro di Jovanotti, Mezzogiorno. Strada, tutto il tempo si consuma, ma Venere riappare sempre fresca dalla schiuma. La foto della scuola non mi assomiglia più, ma i miei difetti sono tutti intatti. Siamo come il sole a mezzogiorno, vedete. Bentornati, siamo di nuovo in diretta dagli studi Radio Cage. Dopo questa allegra canzone di Jovanotti, sì. Torniamo a parlare di qualche notizia. Ma prima diamo la prima risposta che ci è arrivata bene, a domandone, no? Sì, ci è arrivata direttamente per SMS. Sì, Francesco ci ha scritto che Justin Bieber è Satana. Coloro che hanno votato no all'arresto di Cosentino hanno a che fare con Justin Bieber. In qualche modo, bene. Stiamo a approfondire. È un bel giro di parole, sì, mi è piaciuto. Sì. Benissimo. Grazie Francesco del tuo contributo. Grazie mille. Bene, andiamo su una notizia di questo periodo natalizio, non essendoci visti, sono successe alcune cosette. Ad esempio, come accade abbastanza spesso, nella chiesa della Natività di Betlemme, ci sono stati scontri fra i preti greco-ortodossi e gli armeni. Come al solito ci sono questi problemi perché non si sa mai a chi tocca gestire sia la parte amministrativa che quella semplicemente di gestione delle pulizie, dei restauri. Infatti la chiesa cade a pezzi, non si riesce a fare nulla. Quindi, in più c'è stata una rissa molto grande a colpi di scopa addirittura tra questi circa 100 preti, tra greci, ortodossi e armeni. E questa rissa, insomma, è stata vista da tutti i turisti che erano lì al momento. Poi è arrivata la polizia, ha fatto smettere tutti, dice che non ci sono stati gravi feriti, e nel rapporto c'è scritto che nessuno è stato arrestato perché le persone coinvolte erano tutti uomini di Dio, comunque. Allora, giustamente. Ma domanda, questa gestione comporta anche una parte economica? Cioè, ci sono forse dei vantaggi economici? Non credo. Credo sia più un fatto di orgoglio personale. Ovviamente, essendo un luogo sacro per quasi tutte le religioni del mondo, praticamente è molto ambito anche solo come simbolo. Beh, a vari livelli, abbiamo visto. Però non escludo che ci sia anche quell'aspetto. Ah, no, infatti, economico. Forse. Sicuramente è un aspetto anche gravoso, perché insomma ci sono da fare dei lavori molto, molto grossi di restauro, a quanto ho capito. Che tra i vari litiganti non vengono mai fatti. Esatto, molto esatto. Bene, molto efficienza. È questo, sì. Spostiamoci in Italia, in realtà in Città del Vaticano. L'8 gennaio, trago questa notizia da ADN Cronos, ma è stata data anche insomma un po' in tutti i circuiti, al TG addirittura, Benedetto XVI, in occasione della festa del battesimo del Signore, ha presieduto nella Cappella Sistina, secondo la tradizione, la messa nel corso della quale ha amministrato il sacramento del battesimo a 16 neonati. Come persone adulte, ha affermato Ratzinger, ci siamo impegnati ad attingere alle fonti buone per il bene nostro e di coloro che sono affidati alla nostra responsabilità. E quali sono le sorgenti della salvezza, ha proseguito Benedetto XVI? Sono la parola di Dio e i sacramenti. Gli adulti sono i primi a doversi alimentare a queste fonti per poter guidare i più giovani nella loro crescita. Eccetera, bene, eccetera. Insomma, ricordiamo che i bambini erano 17 originariamente, poi uno è stato, insomma, è stato fatto sparire per motivi scaramantici. Per superstizione, sì. No, bene, comunque volevi fare un commento, giustamente. No, nel senso che io spero, auguro a questi bambini, appena avranno la maggiore età, di sbattezzarsi. Ecco, fra parentesi. Beh, no, auguro di fare una scelta consapevole appena li sarà possibile. Certo, ecco. Insomma, io, come si sarà capito, sono contrario ai rituali, diciamo, fra virgolette, imposti ai neonati, insomma. E dare tutta questa risonanza mediatica a questa occasione lo trovo, insomma, non positivo. Siamo in Italia, siamo in parte. Certo. Però anche all'estero, insomma, se ne parla di religione. Ad esempio, nel The Guardian ho letto che la Bibbia è stata il best seller 2011 in Norvegia. Senti là, dove sono state vendute 80.000 copie solo tra ottobre e la fine dell'anno, cioè in 4 mesi circa. Si sono registrate addirittura delle code davanti ai negozi, e c'era gente che dormiva all'aperto pur di aggiudicarsi una copia, perché erano state stampate in origine 25.000 copie, sono finite subito e la gente ha dormito davanti ai negozi, come si fa di solito quando aprono i centri commerciali. Quando vendono l'iPod, o quando cose esce il nuovo libro di Harry Potter, sì. Però ricordiamo che 4 norvegesi su 5 all'incirca appartengono alla Chiesa di Stato norvegese, che è una derivazione della Chiesa evangelica luterana, quindi insomma non è poi così strano. Ma 4 norvegesi credenti su 5 forse, perché so che in Norvegia, Svezia c'è una vasta percentuale di non credenti. Ma veramente? Sì. Ma questo chiedo anche un aiuto anche ai nostri ascoltatori. Sì. Perché sì, questa notizia appunto è sconcertante, in quanto appunto avevo queste notizie, insomma. Però sì, in effetti mi ha comunque colpito, anch'io avevo quest'idea, però poi sono andato a leggere, non vorrei essermi confuso. Ecco, comunque, informateci, sì, scriveteci. Comunque controlleremo anche al più presto. Sì, noi. Assolutamente. Comunque, diciamo però che probabilmente le volevano comprare o perché c'era una collector's edition di qualche tipo. No, c'è una precisazione. La prima traduzione in norvegese della Bibbia, ed è stata scritta senza capitoli o versetti, in una forma a detta della casa editrice, che si legge come un romanzo. Però, sinceramente, sempre la Bibbia, insomma, sono 1500 pagine, anche se si tolgono i capitoli, i versetti, non so se è scorrevolissimo. Insomma, comunque è una versione romanzata, via. Comunque, sarei molto curioso di leggere questa versione romanzata della Bibbia, sinceramente. In norvegese. In norvegese. Ma no, in norvegese non sarei in grado, però. Abbiamo un altro flash, sì, una cosa veloce. Dunque, un sondaggio di Lifeway, sul sito di lifeway.com, dunque, su un campione di 1000 pastori protestanti americani. Le domande che sono state poste erano queste: credi che Dio si sia servito dell'evoluzionismo, quindi una teoria mista in cui c'è un Dio ma utilizza l'evoluzionismo? Certo, l'intelligent design. Dunque il 73% hanno detto di essere contrari a questa affermazione e il 64% di questi fortemente contrari. Solo il 24% è d'accordo con questa teoria e solo il 12% lo è fortemente. L'altra domanda posta è stata: crede nell'esistenza di Adamo ed Eva? 82% ha risposto sì, però di cui 8% fortemente, mentre solo il 17% si è dichiarato contraria a questa affermazione e l'11% fortemente contraria. Fra l'altro, un sondaggio fatto da Gallup mostrerebbe che un 40% degli americani è creazionista. Il 38% crede che Dio abbia utilizzato l'evoluzionismo e solo il 16% crede nell'evoluzionismo puro, cioè senza una divinità coinvolta. Sì, si sa che in America c'è un forte creazionismo e lì proprio il dibattito è il punto in cui è più acceso in tutto il mondo. Vogliono insegnarlo proprio nelle scuole. Comunque un bel sondaggio, un campione di 1000, tutti pastori, protestanti, quindi abbastanza significativo. Molto interessante. E cifre esorbitanti, direi. Beh, anch'io credo nell'esistenza di Adamo ed Eva. Adamo è un cantante italiano famoso. E Eva? Eva è un'attrice. Una sua amica. No, è un'attrice. Beh, fra le altre cose. Dunque, andiamo. C'è un'altra notizia. Andiamo nella musica. Sì, dai. Ci ascoltiamo un pezzo dei Fates Warning del 91. Grandissimi. Eye to eye, occhio ad occhio, faccia a faccia. Bentornati in diretta su Radio Cage e stiamo per affrontare la parte più densa della nostra puntata. Beh, no? Non necessariamente, però la parte più succosa forse. Ecco, e comunque, come avevamo detto, noi vi ascoltiamo. Infatti questo argomento della novità assoluta di questa puntata ci è stato consigliato da un nostro ascoltatore, Jacopo. Diciamo che novità assoluta è la rubrica in cui affrontiamo nuove religioni o nuovi movimenti, nuovi culti emersi negli ultimi due secoli. E questo è addirittura emerso ieri. Ecco. No, sto scherzando. Però è emerso il 5 gennaio 2012, quindi è veramente freschissimo proprio. Parliamo del copimismo, che è scritto K-O e poi copimismo, insomma, sostanzialmente. È una religione fondata da Isaac Gerson, non so bene come si pronunci perché è svedese, e è praticamente una religione devota, come dice il nome, al file sharing, cioè alla condivisione di file. E il nome ovviamente suona come copy me, cioè copiami, e questo qua è il risultato di una grossa lotta intrapresa dal fondatore e dai suoi collaboratori, che ha visto finalmente la Svezia riconoscere la religione come ufficiale. Ricordiamo che in Svezia c'è una costituzione che prevede appunto che ci sia la libertà di culto e che non ci sono requisiti grandissimi per poter fondare una religione, però questa era stata già respinta ben 3 volte e alla terza finalmente è riuscita a passare. Dunque, e già insomma è stata tradotta la Costituzione in varie lingue, c'è anche un sito italiano, l'unico fra l'altro che ha redattato il nome con la C anziché con la K, non capito il come mai, quel motivo, tutti gli altri hanno lasciato copimismo con la K, vabbè. Comunque direi di introdurla meglio con, sentendo un attimo le parole del fondatore del copimismo, e lo facciamo leggendo però un'intervista che le è stata fatta nel sito New Scientist, un'intervista recente, fra l'altro, del giorno successivo alla fondazione della religione, cioè il 6 gennaio 2012. Dunque, l'intervista la facciamo a battuta a battuta, io e Vince. La facciamo a sprombattuto. Sì, sì, sì, bene. Va bene, io faccio l'intervistatore. Ok. Signor bene. Gerson, allora, parlami, vabbè, l'intervista è al tu, quindi, sì, di dai, questa nuova religione. Vediamo, è un giovane Isaac Gerson, ha 19 anni. Ah, è più giovane. È giovanissimo, è uno studente di filosofia. Un ragazzino, tra l'altro. Parlami di questa nuova religione basata sulla condivisione di file, detta copimismo. Allora, ha avuto origine circa 15 mesi fa. Crediamo che l'informazione sia sacra e ugualmente sacro sia l'atto di copiare. Perché fare una religione basata sul file sharing? Perché non bastava un semplice club e avete voluto definirvi una comunità religiosa? Perché guardiamo a noi stessi come un gruppo religioso e una chiesa sembrava un buon modo per darci un'organizzazione. È stato difficile diventare una religione ufficiale? Abbiamo professato questa fede per molti anni e un giorno ci siamo detti, perché non provare a ufficializzarla? È stata molto dura. Le autorità erano piuttosto dogmatiche con le loro formalità. Ci sono voluti 3 tentativi e più di un anno per ottenere il riconoscimento. Che criteri occorre soddisfare per diventare religione ufficiale? La legge di Stato norvegese afferma che per essere una religione devi avere un'organizzazione che abbia momenti di preghiera e meditazione nei suoi rituali. Quali sono le preghiere e le meditazioni dei copimisti? Una parte delle nostre pratiche religiose consiste nell'adorare il valore delle informazioni con l'atto di copiare. Lo chiamate copy acting. Vi ritrovate in una chiesa oppure in una qualche struttura per praticarlo? Ci incontriamo, ma non deve essere una stanza fisica. Può essere anche un server o una pagina web. Mi sembra di capire che alcuni simboli hanno un significato speciale nel copimismo. Sì, c'è il logo copimi, che è una scritta K inscritta in una piramide, un simbolo che viene usato online per far capire che si desidera essere copiati. Ma ci sono anche i simboli che rappresentano il coraggio di copiare, come ad esempio Ctrl-C e Ctrl-V. Perché l'informazione e la sua condivisione sono così importanti per voi? L'informazione è la pietra angolare di tutto ciò che mi circonda e di tutto ciò in cui credo. Copiare è un modo per moltiplicare il valore dell'informazione. Qual è il tuo punto di vista sulla condivisione di file illegali? Credo che le leggi sul copyright siano davvero problematiche e richiedano come minimo di essere riscritte, ma suggerirei di sbarazzarci di molte di esse. Quindi qualunque condivisione di file dovrebbe essere legale? Certamente. State soltanto cercando di giustificarvi oppure la vostra è una religione in tutto e per tutto? Abbiamo questa fede da molti anni. Qual è stata la reazione delle chiese già esistenti? Non ho parlato con molte di esse, ma coloro con cui ho interagito si sono dimostrati incuriositi e hanno visto la discussione come interessante. Si può essere scomunicati dalla chiesa del copimismo? Non ci abbiamo mai pensato, ma se non credi nei nostri valori, allora suppongo non ci sia ragione per esserne membro, mentre se credi davvero nei nostri valori non c'è ragione perché tu sia scomunicato. Quanti membri ci sono attualmente? Circa 3.000. E come si diventa copimisti? Il nostro sito è offline al momento perché c'è stato un eccesso di traffico, ma quando tornerà online, e lo è già, posso dirlo io, sì, devi semplicemente leggere il nostro statuto e dichiararti d'accordo, poi puoi registrarti sul sito. C'è una divinità associata al copimismo? No, non c'è, e questa è una grande sorpresa, sì, devo dire, è questa è una nota senza di divinità, di sono, infatti, sono infatti. Un po' contraddittorio. Sì, comunque, infatti. Julian Assange è un altro prelato del copismo, per caso? Copimismo, sì. No, non abbiamo avuto nessun contatto con lui. Beh, ricordo che Julian Assange è il fondatore di Wikileaks. Sì. Saprete chi è, immagino. Il copimismo ha qualcosa da dire riguardo all'aldilà? Non direi. Come religione non siamo molto focalizzati sugli esseri umani. Potrebbe essere un aldilà digitale. L'informazione non ha una vita propria, ma potrebbe andare dimenticata. Però, finché viene replicata, ciò non accadrà mai. Ecco, e mi sembra insomma interessante, anche perché pensiamo a quanto la digitalizzazione fa per le opere, no? Ad esempio le opere d'arte, i documenti, no? Esatto, ha consentito di salvare tantissimo materiale da distruzione, sì, e comunque di condividerlo con gran facilità. Certo, possiamo mettere intere biblioteche su un DVD, per esempio. Sì, sì, ci sono molti ultimamente che si stanno, molti studiosi e studenti anche di varie università che si occupano di scannerizzare, quindi mettere in formato, sì, digitale libri antichissimi per poi metterli a disposizione di tutti i lettori liberamente su internet. Questa è una cosa molto interessante. Ecco, però se posso dire, sì, mi sembra che il motivo, comunque, al di là di, naturalmente, di quello che dice questo Gerson, sia il far passare appunto il copy acting come fatto religioso e quindi non perseguibile, no? Credo che sia questo un po' il senso. C'è anche questo aspetto, sicuramente, e forse chiamarla religione è un po' eccessivo, anche se lo è a tutti gli effetti, visto, sì, che sì, è stata riconosciuta. Certo. Però, diciamo, appunto, manca una divinità, in effetti, e questo già è abbastanza... E poi mi sembra che, insomma, il nostro caro Isaac abbia un po' anche confuso, insomma. Sì, beh, 19 sì, anni, sì, giustamente, però è tutto molto scritto più chiaramente, forse semplicemente non sa gestire le interviste ancora bene. Scritto tutto molto più chiaramente sul sito, invece. Sì. Che quindi non ha scritto lui? Beh, penso abbia scritto però senza il problemi di tempo, insomma, e magari anche con l'aiuto di qualcuno. Appunto, si fa riferimento alla nobiltà della copia, dato che insiste anche nell'essere umano. Il DNA, ad esempio, ha la capacità di duplicarsi, e questo consente la trasmissione dell'informazione e consente in generale la vita, in un certo senso. Giusto. Questo è interessante. Assolutamente. Inoltre, bene... possiamo parlare un po' dell'organizzazione, perché non è così campata in aria come sembra. C'è un minimo di organizzazione. Ad esempio, ci sono degli assiomi da seguire, e ve ne leggo alcuni, sono veramente pochi. Dunque, il primo è: copiare informazioni è eticamente giusto. Poi, disseminare informazioni è eticamente giusto. Copy mixing, che io ho tradotto come copiare e riorganizzare, è un sacro modo per copiare ancora più della perfetta copia digitale, perché espande e migliora la tua ricchezza di informazioni. Quindi riorganizzare le informazioni e copiarle e diffonderle. Copiare o riorganizzare informazioni comunicate da un'altra persona è visto come un atto di rispetto e forte accettazione della fede copimista. Poi, internet è sacro e il codice è legge. Codice, suppongo, intenda il codice... il codice scritto, il codice HTML, no? Non soltanto HTML, comunque il codice informatico, sì, praticamente. Poi vediamo. Direi che potremmo far nostri questi simboli che rappresentano il coraggio di copiare, no? Magari metterli nel nostro blog. Potremmo. Poi a quel punto sono autorizzati tutti a copiarlo, cioè è una dichiarazione, sì, di intenti. Per me va benissimo. Per me non c'è problema. Tra l'altro, sul sito c'è un link che manda una pagina con tanta scelta di simboli possibili. Ah. E non solo, ma si... Se vuoi leggerci la parte legata al simbolismo, ci sono delle cose interessanti. Ma lo farei dopo una breve interruzione musicale. Sì, che sì, ne dici, giustamente, no? Giustamente. E ci ascoltiamo il brano Seashell dall'album The Ghost That Carried Us Away dei Seabird. Coming softly to yourself. What's the words changed for someone else? Bentornati, amici ascoltatori, siamo ancora qui a parlarvi di copimismo. Copimismo. Bene, diciamo del simbolismo. Del simbolismo dei copimisti. Dal sito ho tradotto, cioè dal sito in inglese, perché in quello italiano è ancora molto, molto spoglio. In costruzione. Però vi voglio dire, comunque, www.copimismo.it, così intanto se volete andarvi a guardare qualcosa, vi consiglio di cliccare su un link al sito, a versione inglese o svedese del sito, che è più completa. Comunque, leggiamo qualcosa sul simbolismo. Allora, il simbolo della chiesa del copimismo è una piramide con la lettera K al suo interno. È detta piramide Copimi, oppure la sacra piramide Copimi. Credo, sì. Comunque è accettabile che singoli individui disegnino, copino e modifichino ogni icona per poi definirla un simbolo copimista. Gli operatori possono, a loro discrezione, anche copiare, remixare e adottare simboli alternativi, anche se resta della massima importanza che rimangano anche rappresentanti delle tradizioni stabilite in queste pagine. Perciò tutti gli operatori sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, tra cui l'adorazione, la cura pastorale e il rituale del giving up, a usare una piramide copy-me ufficiale nel trasferimento, come è stato detto precedentemente. Ma chi sono questi operatori? Sono definiti anche preti, più semplicemente. Sono delle persone il cui compito principale è vivere in accordo ai valori del copimismo. Il mio ruolo secondario è invece quello di aiutare gli altri copimisti a vivere in accordo con i valori del copimismo, e il ruolo terziario è quello di modificare il loro ambiente circostante per renderlo più copimista. Ecco, mi sembra giusto. Ad esempio, creando dei punti di interazione. Cosa sono i punti di interazione? Sono dei luoghi sacri che dovrebbero restare liberi da azioni e monitoraggi anticopimisti. Il punto di interazione è identificato da una rappresentazione della sacra piramide copimi. Un operatore collocherà la sacra piramide copimi e pronuncerà la frase: dichiaro dunque questo un punto di interazione, copiate e diffondete, che sembra un po' andate a moltiplicatevi, no? Sì, ma... sì. I punti di interazione possono essere dentro o fuori da qualunque dormitorio, alloggio, luogo pubblico o privato. La sacra piramide copimi dovrebbe essere sempre presente in ciascun punto di interazione. Ecco, qui secondo me si nota dal fatto che elencano come primo luogo il dormitorio, che è una cosa nata proprio a livello di college, di università. Sì, certo. Curioso citare il dormitorio come primo luogo. Sì, come punto di interazione. Tra l'altro, mi sa che il buon Isaac studiando in una facoltà scientifica, ma facendo filosofia, non sa bene cosa siano le piramidi, perché io sono andato a vedermi i simboli e sono semplici triangoli isosceli. Devi sviluppare una visione ulteriore, capito? Trascendentale. Giusto. Capito? Manca una dimensione, infatti. Forse manca a me, forse esatto, manca a disegno. Esatto, vedo che già capisci, io sono già un po' dentro il copimismo. Va bene, chiudiamo dicendo come si fa a divenire copimista. Benissimo. Io? Sì, tutti coloro che riconoscono i propri valori in quelli della fede copimista possono già chiamarsi copimisti, ma per divenire un membro della chiesa missionaria del copimismo è necessario sottoporsi a un rito. Puoi essere un copimista solo se professi la tua fede nei principi di base presenti nella costituzione del copimismo. Puoi scaricarli dal server della chiesa, riscriverli o inviarne una copia a un amico. Qualunque atto di copia è consentito. In realtà, se stai leggendo questo testo dal tuo browser, è sufficiente che aggiorni la pagina per scaricare una copia del nostro logo dall'intestazione di questa pagina. Allora, per riscriverli, preciso, si intende non modificarli, ma scriverli in un'altra forma e poi... però senza cambiare il testo, ovviamente, in questo caso, perché la Costituzione sembra il minimo. No. Ebbene, io direi che è interessante, cioè potremmo veramente affiliarci, no? Sì, no, fra l'altro ho notato appunto una deficienza molto grande nella versione italiana del sito, che nonostante sia passata già una settimana, ha veramente pochi... dai loro tempo. Ho notato che negli altri siti sono più avanti. Ma se in Italia... La traduzione anche, insomma, lascia alquanto a desiderare, quindi... Potremmo appunto dare una mano, e se voi ascoltatori volete dare una mano, collegatevi al sito www.copimismo.it. Non ci sono modi di contattarli se non lasciando dei messaggi, non c'è un'email, o almeno non l'ho trovata, ma penso che vi ascolteranno, anche perché fino ad adesso ho visto che ci sono sei messaggi soltanto nel sito italiano, dico. Certo. Quindi, se volete andare a rinforzare le fila dei circa 4.000 copimisti attuali, sono cresciuti di 1.000 unità in una settimana, faccio presente. Ma secondo me cresceranno ancora un bel anche po'. È facile affiliarsi, costa poco. Capito. Va bene, benissimo. Va bene, dai. Andiamo con l'ultimo pezzo della puntata. Io direi... Ah, ok, dopo abbiamo qualche segnalazione, sì, dopo per non sbaglio, però. Sì, certo. Ok, allora passiamo subito all'ultimo pezzo. Che è un pezzo di Hiromi Uehara, un artista giapponese, una pianista molto brava. Ah, sì, sì, non la conoscevo. Jazz. Ah, sì, sì, non la conoscevi. Questo è dall'album Another Mind e la canzone è XYZ. XYZ. Tornati amici di Testa Croce Show. Rieccoci dopo questo straordinario pezzo che mi ha convinto a copiare tutta la giustamente, discografia giustamente. Di Hiromi Uehara. No. Bravo, bravo. Sei già un copimista. Sono già un copimista nato. Penso che lo siano tanti, sotto sotto. Sì. Bene, andiamo con qualche segnalazione. Andiamo, allora. Sì, sì, assolutamente. Bene, parto con una un po' particolare. Con quella sui generis. Sì, vi invito a collegarvi al sito... www.thesexperiment, sì. Quindi poi vi metterò magari il link anche sul blog.com. Ho trovato questa notizia sull'Huffington Post nella sezione religione. Domani, per l'appunto, il pastore evangelico Ed Young e sua moglie passeranno 24 ore in un letto posto sul tetto della loro chiesa. Non faranno sesso, hanno precisato, però intavoleranno una discussione interessantissima sul matrimonio, coinvolgendo anche l'aspetto sessuale. Ma Young, per 24 ore? Parleranno? Per 24 ore saranno là sopra, non penso parleranno tutto il tempo, suppongo dormiranno anche un po', non so cosa faranno, sinceramente. Però Young dice che non faranno sesso, sì. Ma vabbè, non si sa mai. Comunque, voi guardate che... Insomma, guardiamo. Sì, comunque sì. Young sostiene che la cultura moderna ha cacciato il letto dalla chiesa e Dio dal letto, e è ora di riportare Dio nel letto e mettere il letto in chiesa. Ci sto. Il pastore in passato d'accordo. Ha incoraggiato la pratica di una settimana di sesso quotidiano con la propria moglie per rinforzare i legami matrimoniali. Quindi non è nuova a queste cose un po' particolari, che poi sono particolari giusto perché è un pastore evangelico, ma neanche troppo. Secondo però WFAA TV News di Dallas, il pastore guadagna circa $1 milione all'anno più vari altri introiti derivanti da proprietà intellettuali, libri, sermoni, programmi televisivi, eccetera, che scrive anche in compagnia della moglie. Quindi, insomma, è anche un bel capitalista, vabbè, in fondo. Però se li guadagna. È una cosa interessante. Quindi, in streaming sul sito thesexperiment.com. Saremo tutti incollati allo streaming per 24 ore. Vabbè, un po' un grande fratello alla fine. Sì, sì. Anzi, forse anche un po' più interessante, sì. Non lo so. Bene, andiamo e avanti. E poi, a Pisa, è già iniziata e continuerà. Continuerà questo weekend la mostra annuale, ormai un appuntamento annuale tra sogno, magia e mistero al Palazzo dei Congressi. L'ingresso costa 6 euro. Allora abbiamo qui insomma l'elenco degli appuntamenti più interessanti che vengono proposti, ma diciamo il centro, il fulcro è una serie di bancarelle, no? Mercati di libri esoterici, sì, purtroppo, cartomanti, sì. Rappresentanti anche di varie una volta regioni. Abbiamo anche trovato Scientology, esatto, infatti io e Gab siamo frequentatori abituali di questa mostra, sì. E abbiamo beccato uno Scientology che cercava di convincerci, vabbè, ma, sì, con degli strumenti poi ne parleremo, sì, comunque sì. Allora vediamo un po' il programma. Allora, sì. Venerdì 13, che già è una data particolare, la mostra è aperta dalle 15 alle 20 e abbiamo una conferenza Bazi e Chi delle Nove Stelle, astrologia cinese pratica, cura del dottor Roberto Marrocchesi, docente e consulente di naturopatia, diagnosi orientale e Feng Shui classico. Bello, questa mi interessa. Scuola del molto. Tempo-spazio. Poi una conferenza di ufologia con proiezione video UFO Alieni 2012 a cura del dottor Roberto Pinotti, famigerato, sì, dire. Sì. Poi conferenza a cura del dottor Ong Kar Singh, Ayurveda, yoga insieme da millenni, una conferenza con proiezione video Biancaneve e l'alchimia a cura del fantastico dottor Mauro Laporta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente Rai 2, e all'auditorium incontro emozionale Villaggio dell'Essere, uno spazio dedicato a chi vuole interagire con se stesso e attivare la condivisione attraverso meditazioni innovative di alto livello spirituale, accompagnati dai suoni di magici strumenti e dalla voce del maestro sonico Mauro Giulianini. Bello, maestro sonico. Fantastico. E ricordiamo, il costo d'ingresso è 6 euro. 6 euro. Vediamo cosa c'è sabato. Accessibile. Sabato 14, dalle 15 alle 23, abbiamo la conferenza Il lato oscuro della forza nelle arti marziali, fantastico titolo, a cura di Gianni Tucci, professore ordinario di matematica applicata, master Reiki, teacher, vabbè, maestro di karate, cintura nera, jiu-jitsu, Kali Escrima, eccetera, anche Tai Chi, bene. Poi abbiamo la conferenza con proiezione video Orwell, La fattoria degli animali, 1984 o 2012, a cura del dottor Mauro Laporta, sempre. Poi abbiamo L'uovo di ossidiana come proposta per il risveglio dell'energia femminile, a cura del guru Atma Kaur, proveniente dal Messico. E poi abbiamo la conferenza I meravigliosi integratori dell'ultima generazione, microalghe, GSE, estratto di bergamotto e silice colloidale per ossa, articolazioni e rigenerazione tendinea, a cura del dottor Roberto Marrocchesi, che ho già sentito prima, sì. E docente di consulenza, vabbè, abbiamo eccetera, già detto. Eccetera, sì. Sì. E poi abbiamo il concerto di beneficenza per l'Africa, Tai Chi Blues, quindi una cosa alle un 21, strana, sì. Sì. Domenica 15, dalle 10 alle 20, è importante perché è l'Universal Tibet Day, a cura dell'associazione Tibet Culture House Italy, Quindi un'iniziativa importante a sostegno della causa del Tibet. All'auditorium alle 15.30 ci sarà accoglienza e prenotazione e poi a seguire proiezione del film Genocidio Silenzioso. Al termine tavola rotonda Tibet, la congiura del silenzio, i media occidentali tra autocensura e disinformazione, in cui interverrà anche, tra gli altri, Samdup Choe Kyapa, rappresentante e portavoce europeo di, del Dalai Lama. Sì, dell'SS, di Sua Santità Dalai Lama. Al termine preghiera dei monaci tibetani per commemorare tutti i martiri che hanno sacrificato la vita per la libertà, la cultura e le tradizioni del loro popolo, che ricordiamo è a rischio di estinzione. Poi, armonizzazioni Reiki gratuite, effettuate dal Reiki Master Gianni Tucci e suoi collaboratori a 10 partecipanti alla rassegna fieristica, a cui verrà rilasciato il relativo diploma di acquisizione. Solo, il primo livello. Però siccome costano in genere queste cose, diciamo che potete prenotarvi inviando un'email a info@alteregofiere.com se volete questa armonizzazione gratuita. E infine, tassativa la prenotazione. Tassativa la prenotazione. Muovetevi. Sì. E alle 18 cerimonia di chiusura onore al Tibet. I partecipanti rendono onore alla bandiera del Tibet, ai monaci tibetani, consegna del kata, tipica sciarpa bianca, a seguire cerimonia di distruzione del mandala con preghiere e distribuzione dei presenti della sabbia. Come distruzione? Sì, distruzione del mandala, non so che senso abbia, però è così. Probabilmente, non so, una riunione con distribuzione del mandala e distruzione dei presenti. La sabbia benedetta va distribuita. Benissimo. Bene, siamo giunti al termine. Ricordiamo i contatti perché c'è una domanda a cui rispondere. Sì, ricordiamo prima la domanda. Chi è il diavolo? Bene. Per voi. E potete scriverci a testocroceshow@gmail.com, allo Skype testocroceshow, oppure basta consultare il blog testocroceshow. Potete scrivere commenti, commentare sul blog testocroceshow.blogspot.com. E seguite anche Radio Cage, le nostre notizie e le notizie delle altre trasmissioni. Ricordatevi di seguirci il prossimo giovedì perché diremo qual è il premio, oltre alle varie altre cose. Poi vorrei salutare in corner Lorenzo degli Indovena, che è una band livornese molto, molto famosa. Abbiamo mandato un paio di pezzi. Nelle scorse puntate, appunto, che sarà nostro ospite a brevissimo. E che ci ha salutato e ci ha ascoltato. Ringraziamo Federico che è stato con noi e che ha costruito la trasmissione come sempre con noi. E vi ricordiamo che dopo di noi non va in non onda. Non va in onda dietro l'angolo. Andrà in onda il prossimo giovedì. La prossima settimana. Sì. Bene, un saluto a tutti, buon strascico di feste. Ci vediamo giovedì prossimo. E intanto ci sentiamo la sigla. Se parte. Ecco qua John. John. Arrivederci a tutti. Imagine there's no heaven.